Friuli nel mondo. 106ª trasmissione dedicata agli emigrati. Lus ignotis. Vogliamo oggi dedicarvi, cari amici in ascolto, alcune composizioni del friulano Piero Pezzè, valente insegnante nel liceo musicale Jacopo Tomadini di Udine. È un maestro dotato di fecondità artistica, accompagnata da una profonda conoscenza e padronanza della tecnica musicale e fortemente legato alla poetica terra del Friuli. Dal divertimento per piano, dal titolo Lus ignotis, su Canti popolari friulani, stralciamo alcune caratteristiche variazioni. Pianista Bianca Pellis. Ed eccovi ora questa ouverture per piccola orchestra. In essa il maestro Pezzè mette in evidenza, oltre alla cultura musicale, la sua spiccata sensibilità di artista. Suona l'orchestra d'archi di Radio Trieste, diretta dal maestro Aladar Yanes. Thank you. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, 106ª trasmissione a cura di Ermete Pellizzari.